Già il fatto che uno dica che guarda il telegiornale dovrebbe indurre al sospetto, eh? Guardare non è osservare, guardare non è leggere, guardare poi non è capire. I telegiornali li si guarda come cose che possono sfuggire rapidamente alla percezione, come cose su cui né si vuole né si può soffermare il pensiero. Guardo il telegiornale e mi tocca un servizio che inneggia all'attuale floridità economica della Polonia. Lo zloty è fortissimo. Nei ristoranti di lusso non ci sono soltanto stranieri, ma anche polacchi. I negozi poi sono belli, eleganti e ben illuminati. La borsa tira. Le immagini mostrano gente per la strada con merci impacchettate in una mano e il telefonino nell'altra, commessi operosi dietro belle vetrine, presunti operatori economici che in maniche di camicia guardano schermi con l'andirivieni delle quotazioni, e le maniche di camicia garantiscono il coinvolgimento morale dei protagonisti e l'intrinseca moralità stessa del loro affannarsi. Poi si vede un intervistatore alle prese con un furbo ministro che dice che tutto va bene, che la Polonia è lì che attende a braccia aperte tutti gli speculatori del mondo. In chiusura del servizio, tuttavia, si dice che questo ben di Dio è a termine e che bisogna affrettarsi. Sì, perché al massimo nel 2001, cioè fra 2 anni in definitiva, il benessere polacco può andare a farsi benedire, anzi, sembra certo che andrà a farsi benedire. Perché? Perché esploderanno, e così diceva il giornalista, le note contraddizioni politiche e sociali. Su queste parole si chiude il servizietto e con un'immagine relativa o presunta tale. Esploderanno le contraddizioni politiche e sociali, e in una piazza si vede un tizio in giacca rossa per un attimo che, visto che non cammina dritto innanzi a sé come gli altri passanti, siamo legittimati a pensare che stia chiedendo l'elemosina. Eccole lì le contraddizioni politiche e sociali pronte a esplodere. La questuabilità dell'atteggiamento sta per le contraddizioni sociali, e immagino che la giacca rossa starà per quelle politiche. La televisione è questa: l'imperativo categorico del vedere ottemperato riducendo quel che c'è da capire ai minimi termini di un simbolo, un robino chiamato a rappresentare un mondo intero. Una mistificazione che comincia già dalla scelta del linguaggio per esprimerla. Un capolavoro di questa tecnica, che esige la visione di almeno un qualcosa, di un che sia sempre e comunque in rapporto al racconto che la televisione sta somministrando, un capolavoro l'ho registrato un paio di mesi or sono. Veniva trasmesso un documentario sulla vita di Primo Carnera, il famoso gigante buono di Sequals, che da pugile vinse il titolo di campione del mondo dei pesi massimi nel 1933. Correttamente vi si metteva in rilievo il fatto che Carnera, come molti altri italiani poveri, dovette cercare fortuna all'estero. Si raccontava del fatto che prima di approdare in America, Carnera era stato in Francia, ma non a Parigi, si diceva, non a Parigi, ma nel sud, ben lontano dagli sfarzi della capitale. Domanda: quali immagini avrà correlato la televisione a queste informazioni? Carnera non è stato a Parigi, ma nel sud della Francia. Come rappresentarlo? La soluzione è ovvia e a portata di quella mano che sappia ben sfrugugliare nel repertorio ideologico per cavar fuori l'utile e al contempo il dilettevole. Il documentario si guardava bene dal proporre immagini di Carnera nel sud della Francia, immagini che presumibilmente non erano a disposizione, ma documentava il fatto che Carnera non è stato a Parigi con le immagini di repertorio di ballerine della Folie Bergère e del Moulin Rouge. Veniva cioè fatto vedere allo spettatore quel che il povero Carnera non aveva visto, ma che in compenso a lui come ad una buona porzione della popolazione maschile non sarebbe dispiaciuto vedere. Con il che ci si rende conto che i rapporti fra immagini e parole possono essere molteplici, come quelli fra immagine e immagine e fra parola e parola. Non tutto illustra ciò che si afferma e qualcosa può illustrare perfino ciò che si nega. La rapidità della sequenza, la complessità della percezione fanno sì che per lo più lo spettatore non ne sia consapevole. L'imperativo categorico della televisione, come ogni imperativo che voglia essere davvero categorico, non si ferma di fronte a nulla, neppure di fronte alla propria contraddizione. Questa rappresentazione del negativo, tuttavia, non è soltanto una manifestazione di stupidità e di impotenza, perché bene o male, pur nella contraddizione fra ciò che si dice e ciò che si fa vedere, bene o male qualcosa si fa vedere. Il testo si trasforma in pretesto. E così come le ballerine danno il loro apporto alla pace sociale più e meglio di quanto abbia potuto fare Primo Carnera al lavoro nel sud della Francia, il pretesto rimane e nella sua pochezza riassume, condensa, immiserisce il testo, cancellando tutte le istruzioni per ricostruirlo.